credo che ormai non serva a niente, perché è passato del tempo, perché è rimasto il mio pianto. Ma guardati come ti sei ridotto, riprenditi, qualcosa dovrai cambiare. Anche chi dorme la notte e vive qua giù non dice niente, perché per un pezzo di pane, perché forse un ladro è affame. Oh, aiutalo, spiegagli un altro modo per vivere e comincia da te. Abbracciami, scusa se non volevo.